Incontri di Gianfranco Fabi. Buongiorno, buon pomeriggio e buona domenica. Con il secondo movimento dall'ottavo quartetto d'archi di Shostakovich iniziamo l'incontro di oggi con Alberto Mingardi. Buongiorno Mingardi. Buongiorno a voi. E prima di presentarvi Alberto Mingardi, facciamo dire a lui come mai ha scelto questo secondo movimento di Shostakovich per iniziare il nostro colloquio di oggi. Ma Shostakovich scrive questo quartetto negli anni 60, questo quartetto viene chiamato Dresda. In qualche modo viene quindi inserito all'interno di uno sforzo propagandistico del regime. Shostakovich l'ha scritto dopo un viaggio nella Germania orientale, evidentemente doveva essere una sorta di testimonianza sul bombardamento di Dresda. Dopo la morte di Shostakovich, però, si viene a scoprire che in realtà è un quartetto autobiografico, contiene diverse citazioni di altre sue opere che erano state stroncate e maltrattate dal regime e da Stalin, soprattutto per esempio la Lady Macbeth, e in qualche maniera è un'opera straordinaria perché, riletta sapendo queste cose, ci trasmette in una maniera credo estremamente viva e forte la grande deflagrazione morale che avveniva all'interno di un grande intellettuale, di un grande musicista piegato da un terribile regime totalitario. Quindi è un musicista, un compositore degli anni del comunismo reale, degli anni del dopoguerra, degli anni in cui appunto Stalin dominava la Russia, e questo brano è un po' l'opposizione al comunismo. È un'opposizione silenziosa e silenziata. È molto interessante la relazione tra Stalin e Shostakovich. Stalin voleva piegarlo e ci riuscì sicuramente, però appunto questo suo grande travaglio interiore, questo suo voler affidare se non altro alla musica testimonianza di quello che vedeva nella Russia dei suoi giorni è straordinario. Poi al di là di questo, Shostakovich è sicuramente uno dei grandi compositori del Novecento ed è un bene che oramai anche in Occidente noi riusciamo a rileggerlo e apprezzarlo per quello che era. Forse uno dei piccolissimi vantaggi dei regimi che riescono a creare degli oppositori tali da essere dei grandi interpreti artistici, però non per questo giustificano i grandi e i gravi regimi, indubbiamente. Beh, insomma, se mettiamo sulla bilancia il numero di morti e il genio, per carità, di Shostakovich, Bulgakov, Prokofiev, eccetera, devo dire meglio artisti mediocri. Meglio artisti mediocri, ma regimi un po' più liberali, anzi meglio nessun regime. E allora Alberto Mingardi, direttore dell'Istituto Bruno Leoni. L'Istituto Bruno Leoni non è una scuola, anche se si chiama istituto. Che cos'è? L'Istituto Bruno Leoni è un think tank, è un istituto di ricerca privato, un centro studi. Quello che cerca di fare è contribuire all'aggiornamento della cultura italiana nelle scienze sociali, della cultura politica italiana, nel senso della concorrenza, del mercato, della libertà di iniziativa, del rispetto dei diritti di proprietà, della libertà tout court. I think tank sono istituzioni più tipiche del mondo anglosassone rispetto che del nostro paese, anche se da quando c'è stato il grande sfaldamento dei partiti politici in Italia nascono come funghi e fondazioni e certo, centri studi di ogni tipo. Noi cerchiamo proprio di assomigliare a un think tank anglosassone per tutta una serie di motivi. Non prendiamo risorse pubbliche per finanziarci, cerchiamo di vivere di contributi privati e soprattutto di contributi associativi, non di sponsorizzazioni, in modo che la ricerca delle persone che lavorano con noi sia il più libera possibile. Facciamo un'intensa attività editoriale perdurando in questa bizzarra idea che in qualche maniera sia veramente importante conoscere per deliberare, e pertanto i decisori decisori pubblici debbano essere aiutati, ponendoli in condizione di fare scelte migliori. Conoscere per deliberare è uno dei motti di Luigi Einaudi, un grande liberale, quindi un istituto di ispirazione liberale. Torneremo poi magari sull'istituto, anzi sicuramente sull'istituto Bruno Leoni, però vorrei ritornare su Alberto Mingardi. Come si diventa direttori di un istituto appunto che vuole avere un ruolo culturale, propositivo, politico all'interno della realtà italiana? Beh, ognuno ha le sue malattie. Io ho contratto questa in assai giovane età. Nello specifico, come si diventa direttore dell'Istituto Bruno Leoni è semplice, basta fondarlo, basta averlo fondato, e poi siccome non è una posizione grandemente ambita, non c'è quindi nessuno piccolo, che ti insidia, ecco. Possiamo dire che da piccolo, come qualcun altro, Alberto Mingardi si è iscritto subito come direttore dell'Istituto Bruno Leoni. Sì, come dire, non c'era tanta concorrenza, ecco, e anche oggi abbiamo un po' il monopolio di questo genere di idee. Tragicamente, ci piacerebbe ci fosse un po' di concorrenza. Ecco, l'Istituto Bruno Leoni quando nasce? L'Istituto Bruno Leoni nasce nel 2004 per iniziativa di tre persone, mia, di Carlo Lottieri e di Carlo Stagnaro, che sono importantissimi pilastri dell'Istituto. Nasce col sostegno di alcuni pochi imprenditori che ci dicono una cosa bellissima da sentirsi dire, cioè: se alla fine del primo anno vi corrono dietro le banche, ci pensiamo noi. Le banche per fortuna non ci sono corse dietro, siamo cresciuti col tempo fino ad essere oggi una struttura di una decina di persone che si occupano per l'appunto di questi temi, contribuiscono a un'attività editoriale molto importante, organizzano tanti eventi, una cinquantina di eventi l'anno, e utilizzano anche le nuove tecnologie, a cominciare da internet, per diffondere queste idee, questi messaggi. In un paese in cui ci sono tanti liberali, e qualcuno dice anche nessun liberale in pratica, perché il liberalismo è una cosa molto di cui si parla molto, di cui si professa molto anche a livello politico, ma poi in pratica i veri liberali come si distinguono? Ma io credo che dobbiamo fare un distinguo a monte, per l'appunto. L'Italia è un paese che ha una fortissima, antica, importante tradizione di studiosi, di pensatori che hanno costruito il pensiero della libertà. Questo dai tempi di Gaetano Mosca, Vilfredo Pareto, Luigi Einaudi, di cui quest'anno ricorre il cinquantenario della morte, eccetera, eccetera, eccetera. Questa tradizione di pensiero è sempre stata politicamente molto minoritaria per una serie di circostanze storiche che noi ben conosciamo. Quando crolla il muro di Berlino, salta un tappo e d'improvviso tutti si riscoprono liberali per un certo momento. Perché? Perché le altre ideologie si erano sfarinate e quella sembrava l'unica politicamente fungibile, politicamente utilizzabile in quel momento. Ora, evidentemente questo non poteva funzionare, ma non tanto perché uno debba dare patente di questo o quell'ismo, di questa o quell'appartenenza, ma semplicemente perché alla fine le riforme, i cambiamenti, le politiche le fanno le classi dirigenti. Il nostro paese era sprovvisto di una classe dirigente capace di fare questo genere di riforme, attrezzata a portare l'Italia a pieno all'interno dell'Occidente di mercato. La situazione è molto migliorata nel corso degli ultimi 20 anni, perché adesso siamo semplicemente sprovvisti di una classe dirigente tout court. Ecco, quindi non c'è una classe dirigente, ma si può definire il liberalismo un'ideologia o è piuttosto un metodo politico, una prassi politica, un modo di guardare alla realtà liberandosi in fondo dalla gabbia delle ideologie? Il liberalismo è un sistema di idee. Detto questo, io non ho grande simpatia per la retorica della fine delle ideologie, perché evidentemente le ideologie sono degli occhiali che uno si mette per guardare il mondo, sono dei pregiudizi che uno ammette di avere, ma quando questi pregiudizi sono trasparenti e sono ammessi, beh, sono anche importanti per capire le cose che abbiamo davanti. Senza occhiali è difficile guardare il mondo che ci circonda dal punto di vista dei fenomeni sociali. Molto spesso, quando si fa l'elogio dell'assenza delle ideologie, in realtà si fa l'elogio del pragmatismo. Il pragmatismo che cos'è? È un assegno in bianco dato alla classe politica. Che rapporto c'è tra il liberalismo e l'economia di mercato? L'economia di mercato è essenziale per la libertà. L'economia di mercato è il regno della libertà, il regno dell'assenza della coercizione. Quindi non si può credere nella libertà e nello stesso tempo credere che il libero mercato sia qualcosa che va mutilato, handicappato, circoscritto. Chiudiamo questa prima parte con la definizione, con l'effetto che fa su Alberto Mingardi quando si parla di fallimento del mercato. Ma il mercato non esiste per dare risposta ad alcuni bisogni. Il mercato è semplicemente l'insieme di un numero pressoché infinito di interazioni tra individui. Il mercato non ha un fine. Il mercato semplicemente è il risultato del modo, il più diverso e vario possibile, con cui noi come esseri umani ci scambiamo liberamente delle cose, dei beni e dei servizi. Quindi parlare di fallimenti del mercato è semplicemente assurdo. Può fallire qualche cosa che abbia uno scopo sociale. Il mercato è una realtà, è un insieme di interazioni differenti. Poi, per carità di Dio, gli esseri umani falliscono frequentemente, noi siamo animali che falliscono negli ambiti più diversi della loro vita, ma il mercato è solamente una matrice, non ha scopi, non ha fini. È un metodo, non è un fine. È un metodo, possiamo dire, un metodo di azione, un metodo con cui si può sviluppare l'economia. I fini devono darli gli uomini. I fini sono degli uomini, sono degli attori sociali. Incontri. Buongiorno, ancora buon pomeriggio ai nostri ascoltatori, ancora con il secondo movimento dell'ottavo quartetto d'archi di Shostakovich. Riprendiamo il nostro colloquio con Alberto Mingardi, direttore dell'Istituto Bruno Leoni. Abbiamo parlato prima dell'Istituto Bruno Leoni, solo non per fare un riassunto della cosa precedente, però una definizione ancora dell'Istituto Bruno Leoni, per far capire a quanti ci ascoltano con chi parliamo. È un think tank, è un centro studi, un ente di ricerca privato che cerca di diffondere i principi del libero mercato. Qual è stata la battaglia più importante che avete fatto per difendere i principi del libero mercato negli ultimi mesi? Negli ultimi mesi ovviamente ci siamo occupati di tante cose. L'attualità politica italiana, come dire, fornisce abbondanti occasioni per difendere i principi del libero mercato, per difenderli ancora una volta, ahimè, spesso e volentieri stando dalla parte di quelli che perdono. Devo dire, nelle ultime settimane ci siamo molto divertiti in vario modo sulla strategicità dei prodotti caseari, sul pericolo gravissimo che il nostro paese corre di vedere le proprie mucche deportate in Francia a causa degli affari che riguardano Parmalat. Dopo appunto molte industrie alimentari italiane che sono già possedute dai francesi, questo spunto di orgoglio per difendere Parmalat, forse perché è un'azienda che era stata un po' coccolata, salvata dallo Stato dopo essere stata rapita dai precedenti proprietari, forse lo Stato si sente un po' in dovere di difenderla. Quando lo Stato si sente in dovere di difendere le aziende, spesso a rimetterci sono proprio le aziende stesse. Ricordiamo che c'è stata di recente un'altra occasione nella quale lo Stato è sceso in campo in forze, aggregando una cordata, combattendo con lo spadone in mano contro il terribile pericolo dell'arrivo dello straniero. Il caso di Alitalia. Ora, è evidente che Alitalia dopo la privatizzazione, per fortuna, funziona molto meglio che prima, ma con quanta fatica, e comunque sia avendo i francesi come socio importante. Che cosa bene ne traggano i consumatori, i risparmiatori e i lavoratori italiani dal fatto che un'azienda sia di proprietà di capitalisti di quel paese che hanno la carta d'identità uguale a quella dei lavoratori dal punto di vista della nazionalità, ovviamente non è molto chiaro. Agli investitori e anche ai piccoli risparmiatori serve che un'impresa vada bene e che quindi la performance di borsa sia buona, ai lavoratori serve avere azionisti che hanno voglia di mettere quattrini sul tavolo perché credono nel futuro di un'azienda, e ai consumatori ovviamente serve un'azienda che faccia dei buoni prodotti e sappia competere sul mercato offrendogli buone cose a prezzi bassi. Nessuna di queste tre cose ha bisogno di questa o di quella bandiera. Eppure l'Italia dovrebbe essere vaccinata da questi pericoli. Abbiamo vissuto negli anni, nei decenni passati, forse un po' troppo lontani, l'esperienza delle partecipazioni statali, l'esperienza della Motte dell'Allemagna in campo alimentare, l'esperienza dell'Alfa Romeo in campo automobilistico, tutte imprese che non erano uno specchio di perfetta gestione. Assolutamente, tutti grandi successi. Ma molto spesso si fa in fretta a perdere la memoria e soprattutto bizzarramente tutti i decisori politici pensano sempre che questa volta sia diverso perché decidono loro. Ora, questo è un vero grande discrimine nelle faccende pubbliche. Noi non possiamo fare norme o mettere a disposizione della classe politica strumenti che funzionano quando i decisori politici sono buoni, bravi, onesti e intelligenti. La carica di ministro dell'economia in Italia non è a vita, quindi non bisogna pensare a norme e a strumenti che funzionano con un bravo ministro dell'economia, bisogna pensare a norme e strumenti che impediranno a un cattivo ministro dell'economia di fare troppi danni. Questa è la vera questione. Paolo Savona alcuni giorni fa scriveva in un bell'articolo sul Foglio di essere, nel suo caso indubbiamente vero, un pianificatore per vocazione e un liberista per disperazione. Perché? Perché per quanto lui si sia formato in anni e in ambienti accademici nei quali la vocazione era quella del pianificare, del disegnare lo sviluppo della società in generale e degli attori economici in particolare, il fatto di aver raggiunto, lo diciamo col massimo rispetto per il professor Savona che molto stimiamo, una certa età l'ha portato anche a vedere un numero amplissimo di pianificatori i quali tutti tradivano il suo identikit del pianificatore ideale. Beh, peraltro uno dei motti del ministro dell'economia di Giulio Tremonti è il mercato quando è possibile, il governo quando è necessario. Pensa che ogni tanto il governo sia necessario per intervenire dove il mercato non arriva. Il mercato dove possibile, il governo quando necessario, è un'affermazione sulla quale credo solamente gli anarchici sarebbero in disaccordo, però è anche un'affermazione gravissima, gravissima nel senso che ha una tale ampiezza che può starci dentro tutto e il suo contrario. Uno può pensare che sia necessario il governo per sgominare la mafia, viva Dio. È giusto. Però non vuol dire che sia necessario il governo per sgominare gli acquirenti di questa o quell'impresa, per entrare direttamente nel controllo dell'economia. Come dire, il business del governo non è il governo del business, ecco, per citare un altro detto. Ma come mai allora questa difesa della posizione strategica dell'industria lattiero-casearia quando un'industria, o anzi un servizio come quello delle telecomunicazioni è per tre quarti controllato da aziende estere? Non è forse più strategico il settore delle telecomunicazioni? A questo genere di domanda non bisogna mai rispondere positivamente, perché sennò non si sa che genere di idee si possono dare ai politici. Fatto sta che credo che il nostro paese oggi sia in un momento di grande incertezza per tanti motivi, perché la situazione internazionale è quella che è, eccetera, eccetera, eccetera, e quindi facciano grandemente presa i messaggi che puntano sulla protezione. Protezione da che cosa? È piuttosto irrilevante, ma siamo in un momento nel quale abbiamo bisogno di sentirci protetti. Come dire, il successo di un attore politico si vede anche giustamente nella sua capacità di sintonizzare i messaggi che dà rispetto a quelli che intuisce essere i bisogni diffusi della popolazione. Questo è un grande imprenditore politico. Un leader è un'altra cosa, è uno che sa proporre un progetto, un'idea di futuro al suo paese. Ecco, tra le iniziative del sottosegretario Bruno Leoni c'è anche l'indice delle liberalizzazioni, se non sbaglio, in cui l'Italia è collocata ormai da tempo un po' a livello a metà classifica. C'è un po' di strada che è stata fatta in alcuni settori anche bene, ma in molti altri settori la strada da fare è ancora molto lunga. Come mai questi risultati di questa classifica? L'indice delle liberalizzazioni è un piccolo strumento costruito dal nostro istituto che sostanzialmente va a vedere una serie di mercati: il mercato dell'energia, quello del gas, il trasporto ferroviario, il trasporto aereo, eccetera, eccetera, eccetera, e mette in prospettiva da una parte la situazione normativa giuridica del nostro paese e dall'altra quella del paese dell'Unione Europea che è più liberalizzato in quell'ambito. Quindi si assegna un elemento, insomma, si assegna un numeretto, si dà una percentuale di grado di liberalizzazione del nostro paese rispetto a quel benchmark, e alla fine, ahimè, quasi tutti gli anni ne viene fuori che l'Italia è un paese liberalizzato a metà. Perché è semplice a dirsi, ma è anche triste, perché sono anni oramai che, con alcune eccezioni, tra l'altro oggi in bilico, pensiamo alla liberalizzazione dei servizi pubblici locali che è messa a rischio dal referendum sull'acqua nel quale andremo a votare, sono anni che non ci sono grandi innovazioni normative sul fronte delle liberalizzazioni. Noi abbiamo vissuto una stagione negli anni 90 in cui bene o male qualcosa si è privatizzato, molto si è privatizzato, e quindi contestualmente si sono fatte le liberalizzazioni. da allora siamo un po' fermi. Forse si è privatizzato più che liberalizzato, in alcuni casi si è privatizzato, sono rimasti dei monopoli privati che qualcuno dice sono più pericolosi dei monopoli pubblici. Si è anche liberalizzato, a dire la verità, in molti settori. Pensiamo al mercato elettrico, pensiamo al mercato della telefonia mobile, che in Italia sicuramente è un grande successo. Certo, nella battaglia politica del momento poi si sono usate espressioni anche molto forti, ognuno ha criticato le privatizzazioni degli altri, eccetera, eccetera, eccetera. Indubbiamente, se pensiamo che cos'era l'Italia nel 92 e a che cosa è l'Italia adesso, dei passi in avanti sono stati fatti. Il problema è che negli ultimi anni, invece, a parte alcuni episodi eclatanti, sul fronte delle regole, non su altri, ma sul fronte delle regole, non ci sono state grandi innovazioni. Questo, tornando un po' all'inizio e avviandoci alla conclusione, forse perché è mancata e quindi c'è spazio per dare forza a una cultura liberale. Dovrebbe l'Italia cominciare ad avere più cultura del mercato. La cultura del mercato è la capacità di comprendere il modo in cui il mercato funziona, di accettare il fatto che il mercato, ahi noi, premia con scarso riguardo al merito e al bisogno, ma è sostanzialmente un sistema che dà la possibilità agli esseri umani di scambiarsi beni, servizi, prestazioni, cose in modo assolutamente non violento e cooperativo, e su questa cultura del mercato poi costruire anche una cultura dell'efficienza, una cultura della corporate governance, un'idea forte di una cosa che in Italia purtroppo manca ancora, cioè l'idea che la separazione tra politica e economia deve essere perlomeno altrettanto netta di quella separazione tra Stato e Chiesa sul quale l'Italia unita è stata costruita. È stata costruita nei primi 150 anni, indubbiamente la separazione tra politica ed economia, riscoprendo anche molte libertà che comportano anche dei rischi, e i rischi hanno un difetto, ogni tanto si verificano e bisogna anche pagarne le conseguenze. Però questo è il prezzo della libertà, e la libertà è forse un valore a cui vale la pena di sacrificare anche altre cose. La libertà non dà la felicità. La libertà, come dicevano i padri fondatori americani, dà la possibilità di cercare di costruire in qualche maniera la propria felicità. È un valore con la L minuscola, è un valore con la V minuscola, e la libertà è scritta con la L minuscola a sua volta. È un po' questo il suo problema, che non è un grande sogno collettivo che riesce a infiammare le coscienze. E per fortuna il protagonista resta sempre la persona che può sfruttare la libertà. E speriamo che la sfrutti bene, speriamo di averla sfruttata bene facendovi compagnia oggi pomeriggio con Alberto Mingardi, direttore dell'Istituto Bruno Leoni, che ringraziamo, come ringraziamo Valeria Bernardi in regia e Anita Panizza in redazione. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Buona domenica.